settore. Le elezioni di midterm, trionfo repubblicano alla Camera, i democratici tengono il Senato anche se per pochi seggi. La CGIL cambia da oggi alla guida Susanna Camusso. Due nuovi deputati aderiscono a Futuro e Libertà, vertice in corso del PDL. Pacco bomba diretto a Berlusconi, Maroni innalzati i controlli negli aeroporti italiani. Susanna Camusso è la nuova segretaria generale della CGIL nazionale. L'avete sentito pochi minuti fa questo annuncio, l'annuncio della nomina di Susanna Camusso alla guida della CGIL, ne parleremo tra pochissimo. Adesso in primo piano ci sono sempre le elezioni americane, come previsto vittoria dei repubblicani alla Camera, mentre il Senato per un soffio è rimasto ai democratici. Sentiamo. I repubblicani sbancano Washington, ma non c'entrano il jackpot complessivo della lotteria elettorale. È un risultato clamoroso, ma solo fino a un certo punto, quello uscito dalle elezioni americane di midterm. I repubblicani hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, conquistando i 60 seggi necessari a superare abbondantemente la soglia richiesta di 218. John Boehner, leader repubblicano, è il nome indicato per sostituire nella carica di speaker la democratica Nancy Pelosi. Al Senato la musica non cambia, ma non basta a consegnare anche questo ramo del Congresso al partito dell'elefante. Qui i democratici si mantengono sopra la quota minima di 50 seggi necessaria a conservare la maggioranza, pur perdendo alcuni senatori. Simbolica la vittoria di Harry Reid, il leader democratico al Senato, nonché uomo chiave dell'amministrazione Obama, che nel suo Nevada ha superato la candidata del Tea Party per pochi voti. Ma per un quadro dei vincitori e dei vinti di queste elezioni di midterm abbiamo intervistato Ettore Greco, direttore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Certamente è una sconfitta per Barack Obama, che aveva lanciato questo messaggio forte di cambiamento a cui poi evidentemente non ha corrisposto un cambiamento reale e quindi suscitato una forte delusione e l'impressione dell'elettorato che non abbia saputo gestire questa fase di crisi economica con efficacia. Il vincitore naturalmente sono i repubblicani che si sono opposti, che sono riusciti a fare presa sull'elettorato, sfruttando anche naturalmente la situazione economica molto grave, con una disoccupazione che rimane doppia se non anche di più di quanto non fosse all'inizio della crisi. Non necessariamente questo movimento dei Tea Party, che evidentemente ha ottenuto dei buoni risultati soprattutto alla Camera, molto meno al Senato, però potrebbe rivelarsi poi alla lunga un fenomeno caduco, perché in effetti adesso per i repubblicani si apre una stagione nuova, una nuova dialettica con la presidenza nel quale dovranno far fronte a alcune responsabilità e quindi accadrà già quello che in parte è accaduto durante la campagna elettorale, dovranno moderare alcuni toni. I democratici hanno perso pure la sfida dei governatori, che da oggi sono in maggioranza repubblicani. Per il partito dell'Asinello resta però la soddisfazione di aver conquistato la California e di aver fatto eleggere Andrew Cuomo nello stato di New York. E per un commento di questa tornata elettorale sentiamo ora Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Le carte della politica si rimescolano a Washington, il nuovo capo della maggioranza repubblicana alla Camera ha teso la mano a Barack Obama, si deve rendere conto che il paese è cambiato, che c'è un nuovo messaggio e se lo ascolterà potremo lavorare insieme. La parola passa a Barack Obama, combattivo ma aperto al dialogo anche lui, parlerà fra poche ore nella mattinata di mercoledì per dare la sua chiave di lettura di queste elezioni. Grazie dunque a Sergio Nava che ci ha ricostruito tutta la lunga nottata americana. Vi ricordo tra poco che c'è l'appuntamento con Mario Platero in America 24, appuntamento che è dedicato proprio alle elezioni di midterm. La politica italiana adesso, Giorgio Napolitano auspica che sulle tensioni, come avvenne nel Risorgimento, prevalga il senso dell'unità. Oggi riunione del PDL e conferenza stampa di Futuro e Libertà, la giornata politica in diretta con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno. Proseguono le fughe dal PDL. Due nuovi deputati entreranno nel gruppo Futuro e Libertà dal partito di Berlusconi. Ad annunciarlo il capogruppo del FLI alla Camera, Italo Bocchino, durante una conferenza stampa nella sede di Fare Futuro. Si tratta di Daniele Toto e Roberto Rosso e Bocchino annuncia che seguiranno tra breve altre adesioni. Così i parlamentari del FLI alla Camera salgono a 37. Intanto Berlusconi riunisce i suoi a Palazzo Grazioli in un vertice iniziato due ore fa. Nelle ultime anticipazioni al libro di Bruno Vespa, il premier sostiene che Fini non è stato cacciato dal partito ma si è autoescluso. In realtà cerca pretesti per la scissione. Il vertice PDL in preparazione della direzione nazionale del partito in programma di domani è in corso e proprio in questo momento Bocchino di Futuro e Libertà replica: Fini è stato espulso dal PDL. Come vedete la tensione nella maggioranza è sempre altissima. Linea allo studio. Grazie Elisabetta, questa dunque è la situazione politica e il fronte inchieste intanto va avanti. Dopo Rubi ora spunta anche Nadia. A parlare dei festini a casa del premier Berlusconi sarebbe anche una escort 28enne di Reggio Emilia, Nadia Macri, le cui rivelazioni sarebbero emerse da un'inchiesta sul narcotraffico a Palermo. La ragazza avrebbe raccontato di aver avuto due incontri a luci rosse con il presidente del Consiglio a Pasqua del 2009 in Sardegna e nell'aprile del 2010 ad Arcore, prestazioni per le quali avrebbe ricevuto in tutto 10.000 euro più alcuni regali. La ragazza avrebbe tirato in ballo anche il ministro Brunetta, che però smentisce. I verbali dei suoi interrogatori sarebbero stati già inviati per competenza a Milano, dove ieri intanto la procura ha escluso irregolarità da parte della questura sull'affidamento di Rubi. Sul punto non ci saranno altri accertamenti, le indagini vanno però avanti per fare luce anche sulle presunte pressioni esercitate da Berlusconi e dal suo caposcorta per favorire il rilascio della giovane marocchina, vicenda sulla quale il ministro dell'interno Maroni riferirà in Senato martedì prossimo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il ministro Maroni lancia l'allarme terrorismo in Italia dopo i pacchi bomba ritrovati ieri. Più controlli da oggi sui voli. Il quadro dell'eversione in Grecia con Vittorio D'Arold. La galassia greca degli anarchici insurrezionalisti ha una lunga scia di sangue e attentati dietro di sé. Questi movimenti terroristi nascono dopo la caduta del regime dei colonnelli nel 1974, con il misterioso gruppo 17 novembre, poi annientato dalle forze dell'ordine. Ma oggi Lotta Rivoluzionaria e altri gruppi eversivi si stanno riorganizzando sfruttando il tradizionale bacino delle università vicine al quartiere di Exarchia ad Atene e il forte malcontento creato dalla crisi economica. Una rabbia e un incolismo giunti a bruciare 3 impiegati nel rogo della loro banca ad Atene. Ora, con i pacchi inviati a personalità europee e dopo aver ucciso Giorgio Vasilakis, assistente del ministro degli interni, il gruppo fa un pericoloso salto di qualità, proprio in occasione del successo a uno dei loro capi, Kostas Gurnas, un modo per rilanciare la sfida alla democrazia greca. Vittorio D'Arold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il ritmo della ripresa economica globale è rallentato dall'inizio dell'anno, mentre il debito pubblico nella maggior parte dei paesi OCSE si sta avviando a raggiungere livelli record. Lo sottolinea l'OCSE nella valutazione economica presentata oggi in vista del summit del G20 di Seoul di fine mese. E intanto l'avete sentito anche in apertura di questa edizione, in Italia i riflettori sono puntati sulla CGIL che cambia. Alla guida da oggi Susanna Camusso, in diretta Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, è così, la CGIL si tinge di rosa, Susanna Camusso è la nuova numero uno del sindacato, con 125 voti su 162 aventi diritto, cioè con il 79,1% il comitato direttivo dell'organizzazione ha votato l'elezione del nuovo leader, 21 i contrari, 12 gli astenuti. Susanna Camusso è la prima donna in 100 anni di vita del sindacato ad occupare il posto di segretario, subentra Guglielmo Epifani, giunto dopo 8 anni al termine del suo secondo e ultimo mandato. Ma sentiamo le prime parole di Susanna Camusso appena eletta segretario. Lo sforzo che potremmo fare è quello che la fiducia diventi un punto di riferimento per le nostre azioni, perché forse la fiducia è uno dei punti di partenza per una solidarietà. In un'avventura difficile, Guglielmo ha avuto un mandato in 8 anni difficilissimi per un'organizzazione, ce ne parlerà lui. Riavviamo con un altro mandato in una stagione altrettanto difficile, non solo per l'attacco alla nostra organizzazione, ma per lo stato in cui è il Paese, e credo dobbiamo in queste ore pensare soprattutto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che si attendono dalla CGIL una risposta positiva a partire dal lavoro. Grazie ancora a tutti e buon lavoro a noi. Un cambio al vertice che avviene dunque in un momento particolarmente complesso, sul tavolo l'unità sindacale con CISL e UIL da ricomporre, i rapporti con la FIOM, il dialogo con il governo. Ma sentiamo un ritratto di Susanna Camusso in questo servizio di Valeria De Rosa. La prima volta di Susanna al comando, la prima volta della CGIL con un segretario donna. La definiscono una lady di ferro, la Camusso. Non per tutti, evidentemente, se il collega Cremaschi, presidente del comitato centrale FIOM, ha ribadito il suo no perché è troppo moderata. Eppure Susanna viene proprio da lì, da quella piccola spina nel fianco della segreteria nazionale che è la Federazione dei Metalmeccanici. La successione è stata preparata per tempo e con cura. Epifani lascia un sindacato in salute, con 6 milioni di iscritti. Ma in acque agitate. Recuperare il dialogo su alcuni tavoli con l'esecutivo, i posti di lavoro che continuano ad andare in fumo e i contratti nazionali derogati. Moderata o no, la Camusso è donna pratica e non gira intorno alle proposte, sulla riforma fiscale per esempio. L'annuncio che ci sarebbe stata una riforma, che sarebbero state presentate delle proposte, l'abbiamo sentito qualche decina di volte. Bisognerebbe invece passare a una stagione in cui si decide di farlo e si decide qual è il soggetto, perché non si può contemporaneamente dire che non ci sono risorse e dire che si affrontano tutti i temi. Pratica e concreta, quello che si può fare si fa, quello che no, no. L'avrà imparato in barca a vela, Susanna, una passione che risale a tempi antichi. Sulla strada della segreteria anche lo strappo con CISL e UIL. Il ministro Sacconi si augura che lei possa ricucire laddove Epifani ha fallito e lei, sigaretta fra le dita, su cui spunta un anello di fattezze orientali, risponde. Lui la smetta di dividerli. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dunque la Camusso al vertice della CGIL, grazie ad Alessandra Schepisi per il collegamento. Avrà molte questioni da affrontare, tanti sono i tavoli di confronto sulle aziende in crisi aperti, ma c'è anche un'Italia che rialza la testa dopo la crisi, sentiamo. Venti di ripresa, l'Italia che riparte. Nel 2010 abbiamo una previsione di chiusura intorno ai 15 milioni che ci porterà a una crescita sul 2009 di circa il 60%. Nel 2009 abbiamo chiuso a 11 milioni in fatturato, quindi perdendo circa il 40% rispetto al 2008. In gran recupero Cerazit, specialista nel settore dei metalli duri per utensili di precisione, come dimostrano i numeri elencati dal direttore di produzione Riccardo Terraneo. L'azienda di Alserio fa parte di un grande gruppo industriale, il numero uno mondiale nel settore. La sede comasca ha 157 collaboratori. Ecco il perché del recupero. Abbiamo fatto leva soprattutto sulla professionalità e sulla preparazione dei nostri operatori, spendendo circa 5.000 ore di formazione e andando avanti a investire anche su nuove macchine e nuove tecnologie laddove c'era profittabilità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tempo in miglioramento in Veneto, dove sono stati trovati oggi i corpi di due dei dispersi. Le vittime complessive di questa ondata di maltempo sono 5. Le elezioni di midterm, trionfo repubblicano alla Camera, i democratici tengono il Senato anche se per pochi seggi. La CGIL cambia, da oggi la guida Susanna Camusso. Appalti truccati in Sicilia, 47 arresti e l'indagine in cui risulta indagato il presidente Lombardo. Calcio, stasera il Milan sfida il Real di Mourinho. Ancora una buona giornata dalla redazione da Anna Rita D'Ambrosio. Parliamo di maltempo, subito la situazione in Veneto. È ancora presto per dare un valore preciso ai danni provocati dal maltempo in Veneto. Intanto ci sono già le prime vittime. L'uomo di 75 anni, disperso a Caldogno, nel Vicentino, è stato trovato nella cantina della sua casa, sotto 2 metri d'acqua straripata dal Timonchio. Ancora in provincia di Vicenza è stato visto il corpo di un uomo nel fiume Astichello. Sempre sotto osservazione i fiumi, critico il Bacchiglione, calante il Piave, in crescita il Brenta. Il Livenza, secondo il Genio Civile di Treviso, ha superato i livelli del 2002, i più importanti negli ultimi 10 anni. Un'altra giornata di intenso lavoro per le squadre di soccorso, come afferma Mariano Carraro, segretario regionale per l'ambiente e la protezione civile. Noi stiamo continuando con i lavori di ripristino degli argini che si sono lesionati e questo è purtroppo un impegno che si prolungherà anche nei prossimi giorni. Contemporaneamente sono in atto da parte delle varie amministrazioni locali, il volontariato di protezione civile, i vigili del fuoco e anche l'esercito. Procederemo, dicevo, con le operazioni di sgombero delle strade per riportare alla normalità le condizioni di vita. Roberto Bonaldi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Padova. Il Veneto paga anche il prezzo della cementificazione, la riflessione del presidente degli industriali di Vicenza, Roberto Zuccato, lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. A differenza del 66, quando c'è stato l'altra forte, l'alluvione, no? che poi ha preso un po' tutta Italia, in questi anni ovviamente il territorio ha pagato in più il prezzo della cementificazione, sia come costruzione di nuove case che di capannoni industriali che di strade, e quindi il territorio rispetto ad allora era aggravato dal fatto che aveva meno capacità di drenaggio. È stato in un certo senso il prezzo del boom del nord-est di questi anni? Sì, però guardi che l'evento è stato eccezionale, tenga conto che in una giornata sono scesi 420 mm di acqua. Voi state un po' monitorando la situazione, avete già un'idea dei danni alle industrie? Devo dire che fortunatamente il tessuto industriale non è stato colpito se non marginalmente. Il disagio soprattutto lo abbiamo subito come mancanza di elettricità. Credo che il danno più grande in questo momento l'abbiano avuto le persone, le case e i negozi in centro Vicenza e qualche impresa artigiana. Vorremmo prima capire qual è stato l'impatto nostro, e certo che il sostegno va soprattutto alle famiglie e al territorio. Ci spostiamo in Sicilia adesso per una maxi operazione del ROS dei Carabinieri, un'operazione importante. 48 ordini di custodia cautelare eseguiti, sequestrati beni mobili, immobili e società per un valore di 400 milioni. È il bilancio dell'operazione antimafia Iblis, condotta dai carabinieri del ROS di Catania su richiesta della Procura Etnea, guidata da Vincenzo D'Agata. Tra gli arrestati anche Fausto Fagone, deputato regionale del PID, il partito fondato in Sicilia dai fuoriusciti dell'UDC di Casini, e poi alcuni amministratori locali del catanese, oltre a pezzi da 90 di Cosa Nostra Etnea. Tra gli indagati anche il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, per il quale non è stato chiesto l'arresto. Una richiesta che era stata rivelata dal quotidiano La Repubblica nel maggio scorso e che aveva portato a polemiche politiche, ma non solo. L'indagine, ha spiegato il capo della Procura catanese, ha messo in luce le nuove strategie operative adottate dalla mafia, i suoi mutati rapporti col mondo dell'imprenditoria e col mondo della politica locale. È stata appurata anche l'inedita funzione di intermediazione di Cosa Nostra tra imprenditoria e politica. Punto focale dell'indagine è diventata l'individuazione delle infiltrazioni mafiose verso il mondo dell'imprenditoria degli affari e le molteplici iniziative per infiltrarsi nel mondo della politica per condizionarne le scelte relative alla canalizzazione dei flussi finanziari. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catania. A Napoli adesso, nel napoletano, per la questione rifiuti, ancora proteste mentre in città restano tonnellate di immondizia per le strade. In diretta Paolo Picone. Paolo. Sì, buongiorno. Diciamo infatti subito che Napoli è sepolta ancora dai rifiuti, oltre 2000 tonnellate sono ancora in strada, mentre ci sono problemi di ordine pubblico nelle due discariche al centro della cronaca di questi giorni, a Terzigno questa notte, dove sono ripresi i conferimenti di rifiuti soltanto dei comuni vesuviani, è stato dato alle fiamme un autocompattatore. Qui invece a Giugliano, davanti al sito di stoccaggio di Taverna del Re, poco fa, dopo una notte di relativa tranquillità, alcuni manifestanti hanno posizionato delle barriere con dei rami d'albero e vecchi copertoni d'auto per rallentare la corsa degli autocompattatori. Intanto aumenta la presenza anche dei manifestanti, sempre qui in zona, con gli studenti delle scuole cittadine questa mattina, ma anche degli altri comuni del circondario. È giunta anche una delegazione di mamme del centro storico. La zona continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine. Il sindaco di Giugliano chiede, richiamandosi al senso di responsabilità delle forze dell'ordine, che non ci siano più violenze. Per il momento da Giugliano è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Picone. Da oggi a sabato si tiene a Rimini Ecomondo, la 14ª fiera internazionale del recupero di materie d'energia e dello sviluppo sostenibile. La green economy è uno dei temi centrali della manifestazione quest'anno, come ha spiegato Luciano Morselli, presidente del comitato scientifico di Ecomondo, al microfono di Adriana Fracchia. Beh, la green economy praticamente sono tutte quelle azioni che intervengono a livello industriale e a livello anche ambientale nella produzione dei beni di consumo, nella produzione dei servizi, in modo che siano sostenibili. Abbinato alla green economy dobbiamo abbinare un altro aspetto molto importante, è quello della industrial ecology, che interviene all'interno dei processi, all'interno delle condizioni di esercizio delle aziende, sede industriale all'interno anche dei prodotti green, oppure nel risparmio energetico, oppure l'utilizzo di energie sostenibili o da fonti rinnovabili. Ecco, ma quanta sensibilità c'è realmente a questi temi? Una domanda molto pertinente: quanta sensibilità e quanta preparazione. E qui hanno un ruolo anche molto importante, secondo me, l'università, eccetera, che prepara dei nuovi professionisti che vengono chiamati molto spesso eco-designer, e poi allo stesso tempo portare avanti dei modelli di sviluppo, dei modelli sostenibili che possono avere una diffusione del territorio e una moltiplicazione. Il cinema adesso da Roma con la nostra Marta Cagnola. Speciale Festival del Cinema di Roma. Buongiorno, il Festival di Roma offre oggi gli ultimi due film in concorso. Io sono con te di Guido Chiesa, la storia di una maternità rivoluzionaria, quella di Maria, e la commedia nerissima Kill Me Please di Olias Barco, subito tra i favoriti. Ma al Festival ormai tradizionali sono gli incontri dei grandi con il pubblico. Ieri sera è toccato a Gabriele Salvatores, che assieme al magistrato scrittore Giancarlo De Cataldo ha parlato di cinema e giustizia e ha raccontato: da grande dovevo fare proprio l'avvocato. Mio padre è avvocato, dovevo fare anch'io l'avvocato, c'era già la targhetta pronta col mio nome sullo studio da aggiungere. Grazie alla musica rock, alla politica degli anni 70, faccio il regista. Ma sì, l'unico avvocato in cui potevo riconoscermi era un po' Jack Nicholson in Easy Rider, Sean Penn in Carlitos Way. Però non solo il cinema si è occupato della giustizia, perché il teatro lo ha fatto più volte. Mi viene in mente per esempio Bertolt Brecht, Il cerchio di gesso del Caucaso. Questo per dire che l'aspetto della messa in scena del dramma davanti oltretutto a una giuria e davanti a un pubblico, questo spesso accade, è oltretutto catartico. Cioè, oltre a arrivare a un risultato di giustizia, è una funzione catartica rispetto a noi, anche ai nostri sensi di colpa, forse, probabilmente. Anche la situazione internazionale nel cinema ha presentato I fiori di Kirkuk, secondo film del regista curdo-iraniano Fariborz Kamkari. La pellicola è la prima coproduzione internazionale girata nel paese dall'inizio della guerra. È la storia di un'eroina curda che studia in Italia per tornare nel suo paese nel nord dell'Iraq, perseguitato da Saddam Hussein. Una donna contro. E parlando della protagonista, Kamkari ha voluto parlare anche di Sakineh. Cerca di cambiare, si innamora e si sacrifica per suo amore. E anche Sakineh un po' ha avuto queste storie. Penso che è molto importante di sostenere. Non deve rimanere qua. Dobbiamo, finché non liberiamo la dal prigione, continuare. E il caso del Sakineh non è l'unico caso che c'è. Ci sono altri casi, purtroppo, che esistono là. Questa situazione è sempre stata ignorata per fatti politici. Per fortuna abbiamo cominciato di essere attenti alle case dei diritti umani. Questo è molto importante. Io ho conosciuto tante donne nel mondo musulmano, nel Medio Oriente, le donne che hanno avuto la forza di cambiare, stanno combattendo quotidianamente per cambiare tutte quelle leggi rigide che una società tradizionale ha costruito intorno di loro. Penso che è necessario di dire: ci sono anche queste donne, esistono e stanno combattendo per aprire un po' la società. E dal Festival Internazionale del Film di Roma è tutto. E noi chiudiamo con lo sport, il calcio, la Champions League. Dario Ricci, Dario. Sì, buongiorno, grande attesa, grandi suggestioni, l'emozione del ritorno di José Mourinho a San Siro, ma stasera Milan-Real Madrid, per i rossoneri c'è anche e soprattutto l'obbligo di vincere per mettere al sicuro una qualificazione che altrimenti nel gruppo G potrebbe diventare più complicata del previsto. Fischio d'inizio alle 20:45, nel Milan il dubbio è tra Robinho e Ronaldinho, Allegri spinge per il primo, ma il presidente Berlusconi vorrebbe in campo il secondo, e poi i riflettori tutti per lui, lo special one José Mourinho. E allora sentiamolo proprio Mourinho alla vigilia di questa attesissima sfida. Posso immaginare che mi possano guardare di un modo non molto positivo, sono l'allenatore dell'Inter, campione d'Europa, però mi sembra che con rispetto. Occhio però anche all'impegno della Roma, che a Basilea deve vincere a sua volta per restare in corsa per la qualificazione nel gruppo E. Ricordiamolo, gli elvetici vinsero per 3-1 all'Olimpico. Giallorossi che si affidano a quel Totti che, pur acciaccato per un infortunio alla spalla e squalificato, salterà il derby di domenica prossima, ma che proprio a Basilea va a caccia del primo gol stagionale. Sentiamo il tecnico Claudio Ranieri. Non penso adesso al derby, penso al Basilea, una partita importante, c'è davanti il futuro nostro della Champions League, è un torneo bellissimo e vogliamo andare avanti. E per il momento è tutto. Grazie Dario Ricci, è tutto anche per questa edizione, grazie regia Roberto Scaltritti, il GR torna alle 14, ora c'è Italia in controluce. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.